as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, oggi puntata speciale del Pane e Rose. Non parleremo di metalmeccanici, non parleremo di contratti, non parleremo di vertenze, parleremo invece di arte. Una di quelle puntate che a molti piacciono, in cui affrontiamo quello che succede a Bologna, in questo caso nel fronte arte e le lavoratrici dell'arte, quello che stanno realizzando. E in particolare noi spesso abbiamo qua in radio le compagne del Paleot, di Ecodanza, che hanno in questo periodo hanno organizzato questa iniziativa Refugia. Roberta ci spiegherà lei esattamente di cosa si tratta. Lasciamo subito all'intervista, prima un pezzo magnifico, che so che piace tantissimo alle ragazze del Paleotto questo pezzo, e sentiremo l'intervista. Spiegherà a Roberta le iniziative che ci sono state. Refugia è già un po' di settimane che va avanti a Bologna, ci sono state altre puntate dedicate a questo fatte su altre trasmissioni. Noi abbiamo la linea diretta con loro, soprattutto per quanto riguarda il loro lavoro, e parliamo soprattutto con loro come lavoratrici. Abbiamo fatto diverse puntate in cui abbiamo affrontato questo argomento. Adesso sentiremo un pezzo musicale fantastico, poi l'intervista vi spiegherà cos'è Refugia, le ultime iniziative. Sono proprio oggi e domani ci saranno le ultime iniziative, non mancate, mi raccomando, spiegherà tutto Roberta. A dopo. Sola sul letto a terra cava, sbatte la talpa con la capa pelata su un corpo duro, chissà su un muro, la bocca di un buco oscuro, che paura, un mostro sicuro, dimmi chi sei tu, Io sono un bulbo, ma se vuoi tu mi puoi chiamare rizoma, sono della zona, ma vivo dovunque allo stesso tempo, nella terra mi oriento, il mio solo obiettivo è il collegamento, con i bulbi compagni, facciamo rete come la tela dei ragni. Sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio. Scava, scava la talpa, ma stavolta non scappa, testa calma. Scava sotto la tana per cercare compagni e farne casa. Più la tana si allarga, più il suo cuore si scalda, terra sana, da cui nascere ancora, come rete, non sarà più sola. Sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno. Sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno. Sono solo, la mia casa è il mondo, la sai, ma forse è proprio che sono uno, ma non sono solo, ma non sono solo, ma non sono solo. Ciao Ro. Allora, siamo qui con Roberta Zerbini, del Paleotto. Vogliamo con te parlare della bellissima iniziativa che avete organizzato quest'ultimo mese. Voi del Paleotto, Ecodanza, avete organizzato questo, si può chiamare forse festival, definiscilo tu. Io ho partecipato a una bellissima iniziativa, veramente sono rimasto colpito da quello che ho sentito, quello che ho ascoltato, dell'ambiente che c'era, l'atmosfera. Anche Repubblica ne ha parlato, un articolo in cui veramente vi ha elogiato. Allora, noi vogliamo innanzitutto far conoscere agli ascoltatori cosa è Refugia, di cosa si tratta. Illustraci. Ebbene, grazie, ciao, grazie mille per l'invito. E, sì, Refugia è un progetto, diciamo, di attivismo culturale che ormai portiamo avanti da 4 anni e, diciamo, intreccia queste 2 giornate molto significative e che sono quella del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza verso le donne, verso il genere, insomma, e il 10 dicembre, la giornata dei diritti umani. È un progetto che si attiva soprattutto nel quartiere Savena, dove noi abbiamo sede, in modo molto tentacolare, perché cerca di addentrarsi e di interagire con svariati luoghi e svariate, diciamo, ambienti sociali che cerchiamo di indagare, intercettare e coinvolgere. E sono appunto 16 giorni di attivismo tra arte, cultura, ricerca, formazione, politica e comunità. E si apre una riflessione, secondo noi, intrecciando queste 2 giornate, molto importante rispetto alle visioni un po' marginali e ai diritti, le distorsioni che in questo momento la società sta manifestando rispetto a queste 2 date. E riteniamo sia proprio per questo un progetto interessante, perché manifesta e rende evidente la necessità di essere il più intersezionali possibili, in modo che le lotte possano unirsi e quindi avere un maggiore risultato, una maggiore visibilità e una maggiore connessione rispetto a tutti gli strati che in questo momento stiamo vivendo come difficili e come problematici e soprattutto come urgenti, sia la questione della casa da un punto di vista meramente pratico e quindi tutta la problematicità abitativa che c'è anche nella nostra città e sia rispetto ai diritti umani che in questo momento vediamo sono evasi e sono dimenticati in molte parti del mondo e quindi è fare un cannocchiale sempre molto attento tra i bisogni personali, individuali delle persone e i bisogni collettivi anche nel rispetto del mondo intero, insomma di tutta la comunità mondo che in questo momento ha delle grosse difficoltà rispetto alla questione dei diritti umani. Il progetto ha come sottotitolo quest'anno, ogni anno mettiamo un po' una lente per cercare di tessere tutte le azioni e quest'anno la domanda aperta che facciamo è che cos'è casa? Appunto, come dicevo, in un momento in cui l'emergenza abitativa e la distruzione di intere città, intere identità culturali, intere comunità, popoli, etnie, ci è sembrata una domanda centrale, anche se ovviamente se ne parla tantissimo, crediamo che l'arte abbia sempre un modo molto specifico, profondo, emotivo e perturbante di affrontare le questioni. Refugia gode di molte collaborazioni e molte alleanze tra associazioni e attività, persone del territorio e propone eventi pubblici, incontri, concerti, performance, attività laboratoriali. C'è stata una grandissima attivazione di, la chiamiamo ricercazione, cioè di incontri, di dialoghi, di pratiche, di raccolta anche di parole, gesti e sensazioni da parte di tutta la cittadinanza. Siamo stati nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e di secondo ordine e siamo stati nei centri anziani del quartiere, abbiamo incontrato famiglie di rifugiati e quindi abbiamo veramente cercato di mappare il più possibile le risposte a questa domanda per noi importante. La programmazione, appunto, come vi ho detto, è completamente diciamo gratuita, eterogenea, aperta a tutti, cercando di facilitare il più possibile l'accesso e la fruizione ai programmi culturali. Anche proprio cercando di andare contro a una povertà culturale che sta dilagando nel nostro paese e quindi qualsiasi appuntamento culturale cerchiamo di calarlo in contesti sociali diversi per poter far sì che l'incontro con la cultura, con la riflessione sia alla portata di tutti e questo per noi è veramente molto importante. Refugia è realizzato grazie al contributo del quartiere Savena, al contributo della Fondazione del Monte di Bologna di Ravenna e al Comune di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna. Volevamo chiederti, ci sono altri appuntamenti? Refugia, mi pare che non sia finita, ci sono altri appuntamenti, puoi tranquillamente spiegarci cosa farete nei prossimi giorni. Avete fatto tante iniziative in questo periodo, se ci sono ancora altri per i nostri ascoltatori vogliono partecipare, potete tranquillamente spiegarci di cosa si tratta, raccontaci un po' il prossimo appuntamento di Refugio. Eh sì, ci sono ancora un paio di eventi che per noi sono molto importanti, giustamente li abbiamo lasciati alla fine di questi 16 giorni di attivismo. Uno sarà proprio oggi, il 9 dicembre alle 17:30, ci troviamo al Battito Sport in via Valle d'Aosta 2, nel quartiere Savena, e ci sarà una proiezione di un docufilm realizzato dagli studenti del Rosa Luxemburg e del Liceo Laura Bassi di Bologna, sotto la regia del regista Mauro Bartoli. E il docufilm si chiama Tacchi e Tacchetti, che va oltre, diciamo, al semplice racconto della nascita del calcio femminile a Bologna per diventare veramente un manifesto di diritti e di parità di genere. In un mondo dove i tacchi sono ancora un simbolo di stereotipo e di pregiudizio, il film racconta appunto la sfida di queste donne che scelgono di abbattere i pregiudizi in un ambito sportivo decisamente maschile come quello del calcio. Dopodiché ci vediamo, per chi ha voglia di far parte del nostro progetto, ci vediamo il 10 di dicembre, mercoledì, dalle 18 fino alle 23, presso il Centro di Comunità Populonia, in via Populonia 2, sempre a Bologna, dove ci sarà la giornata conclusiva del progetto. Ricordiamo che il 10 dicembre è la giornata mondiale dei diritti umani e comincerà con una serie di restituzioni degli eventi e dei laboratori che sono stati portati avanti sia da Ecodanza, cioè noi, sia dall'artista in residenza che si chiama Chiara Zompa, e quindi ci sarà la restituzione appunto di tutto questo lavoro fatto in questi 15 giorni. Dopodiché alle 19 ci sarà un intervento di Mediterranea Save Humans, che ci racconterà di un progetto che loro hanno attivo in Cisgiordania. Alle 19:30 avremo Greta Caruso di Bologna per Gaza, che è una rete di volontari che si occupano dell'accoglienza di rifugiati palestinesi. Alle 20 una cena comunitaria a offerta libera. e alle 21:30 il concerto della cantautrice Sara Fornito nel gruppo Cenere. È una cantautrice sempre molto attenta appunto alle problematiche del progetto Refugia e che quindi ci porterà le sue parole e la sua musica per concludere poi insieme veramente questi 16 giorni che hanno chiesto molta attenzione, molto cuore e molto impegno da parte di tutti. Terza ed ultima domanda, come da tradizione al Pane Rose, volevamo chiederti prossime iniziative, se avete dei programmi, poi se no raccontaci quello che fate, come la gente può incontrarvi, può trovarvi, per poter partecipare ai vostri corsi, alle vostre iniziative. Con questa ti salutiamo e ti ringrazio per la tua disponibilità come sempre. E Codanza è un'associazione culturale che ha sede a Bologna da tantissimi anni. Ci occupiamo principalmente di arti performative, quindi di diciamo performance, e nel nostro specifico utilizziamo soprattutto il linguaggio del corpo, proveniamo da esperienze molto approfondite rispetto al linguaggio della danza, che ovviamente ha avuto la sua trasformazione e il suo processo nelle arti performative. Diciamo che dopo Refugia ci prendiamo un po' una piccola pausa, anche se continuano ad esserci alcuni appuntamenti presso il Centro Culturale che noi gestiamo un centro culturale ai margini, perché è proprio ai margini della città, che si chiama Paleotto 11, e lì continuano ad esserci un po' di eventi prima della pausa natalizia. Gli eventi di quest'autunno li abbiamo chiamati giornate offline, dove cerchiamo di ricostruire una socialità fatta di persone, di sguardi, di parole e meno di virtualità. E quindi ci possiamo ritrovare nei sabati lenti, che sarà sabato 13 dicembre dalle 16 alle 19, dove viene, diciamo, lo spazio diventa simbolicamente il divano di casa, dove si possono portare le proprie attività manuali o un libro da leggere insieme o semplicemente la voglia di farsi un tè, magari corretto al rum, per stare insieme e condividere un momento della giornata dedicato al riposo, non voglio dire al hobby, ma alla manualità che crea una connessione fra le persone. Dopodiché abbiamo invece, per quanto riguarda le domeniche in famiglia, cioè le domeniche dove puoi veramente portare la tua famiglia allargata, ci troviamo domenica 21 da mezzogiorno e lì ci sarà un pranzo vegetariano, vegano, curato e cucinato da noi con molto, molto amore. E, dove si appunto si mangerà tutti insieme e poi si lascerà libero il pomeriggio per danzare, cantare, ballare, stare appunto insieme e visto la giornata 21 dicembre sarà anche l'occasione per farci gli auguri di buone feste e di prenderci un momento di pausa fino all'anno nuovo. E niente, volevo ringraziarti per questa occasione che ci hai lasciato di promuovere questo festival, che sì, per noi è veramente un appuntamento a cui teniamo molto per i contenuti che queste 2 giornate portano all'attenzione di tutti e per il nostro piacere di cercare di creare azioni culturali che possano veramente incontrare le persone e non restare, diciamo, separati dalle problematiche sociali e non diventare nicchia della cultura, ma essere in mezzo alla gente e con la gente avanzare insieme. Grazie ancora. Didn't know what I wanted to be. I was every hungry little schoolgirl's pride and joy, and I guess that was enough for me to win the race, a prettier face, brand new clothes and a big fat place on your rock and roll TV. But today the way I play the game has got to change. Now I gotta get myself happy. I think there's something you should know. I think it's time I told you so. There's something deep inside of me. There's someone else I've got to be. Take back your picture in its frame. Take back your singing in the rain. I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Freedom, I won't let you down, so please don't give me up. Gotta have some faith in the sound. It's the one good thing that I've got. I won't let you down, so please don't give me up. Cause I would really love to stick around. We sure had some fun, boy. What a kick, just my buddy and me. We had every big shot, good time band on the run, boy. We were living in our fantasy. We won the race, got out of the place. Went back home, got a brand new face for the boys on MTV. Now today, the way I play the game is not the same, no. I've got to get myself happy. I've got to get myself. I think there's something you should know. I think it's time I stop the show. There's something deep inside of me. There's someone I forgot to be. Take back your picture in its frame. Don't know that I'll be back again. I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. Sometimes the clothes do not make the man. To do now is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Freedom, I won't let you down, so please don't give me up. Freedom, gotta have some faith in the sound. One good thing that I've got, yeah. Please don't let me down. Please don't let me. You got to give what you take, yeah. Allora, avete ascoltato l'intervista che abbiamo fatto a Roberta Zerbini del Paleotto, Ecodanza, per quanto riguarda la bellissima iniziativa di Refugia. Per chi non si fosse collegato potrà trovare la pagina podcast Il Pane e le Rose, lì la puntata, per chi non potrà ascoltarla. Ecco, io non posso fare delle conclusioni perché io penso che Roberta abbia spiegato tutto. Quello che hanno fatto, quello che hanno realizzato, io posso dire che è importante che ci sia dell'arte, che non sia arte commerciale o arte da, quella, insomma, il modello Fininvest, il modello berlusconiano dell'arte, che anche questo governo vuole finanziare. Fino a quando ci saranno dei finanziamenti, ci saranno dei, spero che a più a lungo possibile, che si voglia, si abbia voglia di finanziare anche arte che si occupa di sociale, che si occupa di politica, che fa politica a 360 gradi, che si occupa di femminismo, di condizioni dei rifugiati, di immigrati, di marginalità. Io penso che questo sia una buona cosa. Quando finiranno questi soldi, quando nessuno più finanzierà questi progetti, quando verranno abbandonati, bisognerà lottare perché questo non accada, perché ne va del futuro del nostro paese. La cultura ci salverà dalla barbarie, dall'imbruttimento, dall'omologazione, da rinchiuderci dentro le nostre case davanti a un'intelligenza artificiale, davanti a un computer, davanti a un cellulare. latte ci salverà sicuramente, ed è una delle poche cose che sono direttamente collegate alla rivoluzione. Se c'è uno spirito rivoluzionario, c'è anche un'arte rivoluzionaria, e noi a quella vogliamo diffondere in tutto il mondo, e quella vogliamo sostenere. Ecco perché abbiamo fatto questa puntata. Alla prossima puntata. All'interesse di evitare che i lavoratori e le lavoratrici possano rivendicare i propri diritti.